Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Stati Uniti, le proteste, parlano i protagonisti. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Tonight, Louisville, Kentucky is under a state of emergency awaiting a major announcement in the Breonna Taylor case. The many protests in American cities were largely peaceful, with Americans of all races and creeds coming out to support the Black Lives Matter movement. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Oggi venerdì, l'ultima puntata di Nessun Luogo è Lontano. Con me ci sono sempre Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. I numeri 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti sul tema di quest'oggi che tra pochissimo andrò a illustrarvi. Poi c'è Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, potete twittare, vi leggo su Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Il tema di quest'oggi, come anticipato nella puntata di ieri, proveremo a fare il punto sulle violente proteste che stanno squassando il Kentucky, violente nel senso che stanno puntando il dito ancora una volta con grande veemenza verso le forze di polizia. L'uccisione alcuni mesi fa di Breonna Taylor, l'infermiera afroamericana uccisa nel suo appartamento. Soltanto uno dei poliziotti è stato incriminato per condotta negligente, gli altri due no, e questo ha scatenato la rabbia ancora una volta dei cittadini di varie città del Kentucky, soprattutto Louisville, ma anche in altre città d'America. Il Black Lives Matter, il movimento che ormai da mesi scende in piazza, ritrova nuova spinta, e però vi faremo sentire non soltanto la voce dei Black Lives Matter, ma anche dei Blue Lives Matter, che è il movimento sostanzialmente antagonista che vuole dare voce anche a quelle che sono le forze dell'ordine che perdono la vita o che vengono ferite o che sopportano violenze in questi Stati Uniti, sempre più divisi, sempre più polarizzati sullo sfondo, ovviamente lo sapete, la corsa presidenziale che si è avvelenata parecchio nelle ultime settimane. Faremo il punto dicendo, sentendo le voci e poi mettendo il grandangolo con due ospiti che sono attenti osservatori dell'attualità statunitense. Il tutto naturalmente non prima di aver sfogliato i nostri dossier. Il primo ci porta a Hong Kong. Ieri lo avete sentito dal GR, Joshua Wong, uno dei leader delle proteste, uno dei leader storici, benché molto giovane di età, è stato arrestato e rilasciato sua cauzione. Però sarà processato il prossimo 30 settembre, cioè mercoledì prossimo. È accusato di aver partecipato a due manifestazioni non autorizzate e di aver indossato una mascherina. Quest'ultima accusa, secondo i suoi sostenitori, rende al meglio la paradossale situazione in cui versa l'ex colonia britannica dopo l'approvazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale. L'abbiamo raccontato più volte, sostanzialmente Pechino allunga una mano andando a comprimere in maniera molto violenta quelli che sono i diritti, le libertà individuali e collettive dei cittadini di Hong Kong. Sostanzialmente queste norme, combinate con altre norme precedenti, vietano di nascondere il volto durante la manifestazione, però allo stesso tempo, come sapete, la legge prescrive di proteggersi e di utilizzare le mascherine per prevenire i contagi da coronavirus. Joshua Wong rischia, pensate, fino a 5 anni di carcere. In un messaggio diffuso ieri, l'attivista sostiene che l'udienza fissata per il 30 settembre ha anche un valore simbolico. Il giorno dopo, infatti, il 1 ottobre, ricorre la festa nazionale cinese. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666. Tra pochissimo, naturalmente, ve ne darò conto. Non prima però di essere tornati sull'attacco, lo avete sentito, all'arma bianca, l'accoltellamento, due feriti, lo avete sentito dal GR. C'è stato però un momento di particolare tensione quando il presidente Jean Castex a un certo punto ha dovuto interrompere una riunione nella Saint-Denis à Pantin per confermare, appunto, dopo che gli era stato confermato, che era in corso un attacco. Sentite. Mi dispiace, sono sicuro che capirete. Dovrò lasciarvi molto più in fretta di quanto mi aspettassi, perché purtroppo si è appena verificato un fatto grave a Parigi. C'è stato un attentato con arma bianca nell'undicesimo arrondissement, davanti alla vecchia sede di Charlie Hebdo. E questo naturalmente non fa che confermare l'allarme che i servizi europei, ma in particolare francesi, lanciano sul terrorismo. Giusto ieri c'era stato un potenziale allarme bomba sulla Torre Eiffel, poi rientrato. È interessante il luogo scelto dall'attentatore, l'avete sentito, un pakistano con precedenti per possesso di armi da fuoco, non sembra coinvolto in movimenti estremisti islamici. Dicevo interessante perché era la vecchia sede di Charlie Hebdo, e lì in quelle vie c'erano anche dei murales che ricordavano proprio il lavoro dei giornalisti di Charlie Hebdo, che fra l'altro su Twitter si sono affrettati a esprimere il cordoglio per le vittime. Franz Venkata stava dedicando fino a qualche istante fa un lunghissimo speciale proprio agli ultimi sviluppi e avvenimenti. Se vi fossero novità, naturalmente ve ne daremo conto. E intanto una notizia buona per la vitalità democratica, casomai ne fosse rimasto qualche filo, della Palestina: arriva dei colloqui di Ankara. Fatah e Hamas hanno comunicato la decisione di indire nuove elezioni, le prime in Palestina dopo 15 anni. Mahmoud Abbas e Ismail Haniya hanno reso noto che le consultazioni si terranno entro 6 mesi. Riguarderanno assemblea legislativa, presidenza dell'autorità palestinese, consiglio centrale dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Le ultime elezioni parlamentari palestinesi si sono svolte, pensate, nel 2006, con la grandissima vittoria di Hamas, e che però scelse un governo di unità nazionale con Fatah. L'anno dopo scontri nella striscia di Gaza, che sostanzialmente è finita in mano a Hamas. Vedremo se sarà il momento per l'autorità palestinese per darsi una rinnovata, una svecchiata. Qualcuno magari in Italia userebbe il termine rottamazione, ma ormai, visto che l'autorità palestinese sembra impotente di fronte a quella israeliana nel rivendicare i diritti ed è tacciata di corruzione, di anzianità politica ma anche anagrafica, a tutti gli effetti vedremo, dicevo, se sarà un momento per dare un po' una scossa alla politica palestinese. E infine, incredibile ma vero, ma il leader coreano Kim Jong-un si è scusato per l'uccisione del funzionario sudcoreano nelle acque territoriali del nord. Vi davamo conto di questa notizia proprio ieri, lo ha detto l'ufficio presidenziale di Seul, secondo l'agenzia di stampa Yonhap. Kim ha definito l'incidente un affare vergognoso, si è scusato per aver deluso il presidente Moon e i sudcoreani. La Corea del Nord ha anche riferito che più di 10 colpi erano stati sparati contro l'uomo che si stava intromettendo nelle acque del nord, e gli spari sarebbero stati effettuati, si sarebbe sparato per evitare un potenziale focolaio di coronavirus. Il Nord, Pyongyang, ha poi aggiunto che è stato dato fuoco all'oggetto galleggiante, a questa piccola zattera, questo piccolo mezzo di fortuna sul quale viaggiò l'uomo, e non direttamente all'uomo stesso, non al corpo. Vedremo se vi saranno reazioni. Ripeto, la cosa che un po' rifugge dalla dialettica normale di Kim Jong-un, sempre molto muscolare, assertiva, sono queste scuse rivolte direttamente a Seul. Questi nostri dossier internazionali sono fatti, notizie che arrivano dai quattro angoli del globo, che sono state puntate in nessun luogo lontano, che probabilmente saranno i prossimi approfondimenti per la settimana prossima. Adesso però andiamo negli Stati Uniti. Say her name! E avete sentito brevemente, quasi come un graffio, quello che è il grido della piazza nel Kentucky, Louisville in particolare. 2 giorni di proteste nonostante il coprifuoco, con incidenti anche piuttosto seri, col ferimento di alcuni agenti di polizia. Intanto i vostri messaggi al 349-238-6666, che iniziano a mettere dei mattoncini sul percorso, sul viaggio che faremo quest'oggi in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. La prima, tra le prime a scriverci c'è Claudia. Purtroppo con un presidente come Trump impossibile che tutto non si radicalizzi negli Stati Uniti. Per avere anche una minima chance di essere rieletto deve radicalizzare tutto e sempre. Poveri americani con un presidente così nelle costole. Così una ascoltatrice, naturalmente vi sono anche messaggi di segno totalmente opposto, però diciamo regola giornalistica vuole innanzitutto dare voce a quelli che sono scesi in piazza. Antonio Talia ha raggiunto nella, per noi, tarda serata di ieri Chivona Newsom, attivista cofondatrice di Black Lives Matter a New York, peraltro una candidata sconfitta alle primarie del Partito Democratico per correre in uno dei seggi del distretto del Bronx. La prima domanda riguarda proprio la reazione di fronte alla caduta delle accuse penali per gli agenti di Louisville in Kentucky che sono responsabili della morte di Breonna Taylor. Sentiamo la sua voce, andiamo dritti al cuore della puntata di quest'oggi. Dobbiamo considerare quello che è successo due giorni fa. Due agenti di polizia non sono stati incriminati e un terzo è stato incriminato per condotta pericolosa e rilasciato subito su cauzione per la somma di $50. Quindi l'unico agente con un procedimento penale è accusato di aver sparato contro il muro dell'appartamento di Breonna Taylor, mettendo in pericolo i vicini. Ma nessuno è formalmente incriminato per l'omicidio di una donna nera uccisa all'interno di casa sua. Come attivista che lavora sulle questioni di razza da 5 anni, anche se informalmente sono coinvolta da molto più tempo di così, è stato un giorno triste. È stato un giorno di lutto. Abbiamo organizzato una veglia a Louisville chiedendo giustizia. Il nome di Breonna Taylor è accostato a quello di George Floyd ormai in tutto il mondo e il mondo ha visto che non abbiamo ottenuto giustizia. Ci sentiamo sconfitti, ingannati, ma nel movimento si percepisce la necessità che questa lotta vada avanti. Il caso di Breonna Taylor dimostra che dobbiamo andare avanti. Le proteste stanno proseguendo a Louisville, stanno proseguendo ovunque a New York. Migliaia di persone sono scese in strada e vogliono continuare a lottare, ma il giorno in cui le accuse contro i poliziotti sono cadute è stato un giorno molto doloroso. Questa è la voce di Chivona Newsom, attivista cofondatrice di Black Lives Matter a New York, ma come sapete il movimento attraversa tutti gli stati degli Stati Uniti e in Kentucky in queste ore si sta facendo particolarmente sentire. La vostra voce, anche quella, si fa sentire a volte con alcuni ascoltatori che non omaggiano quella che sono le semplicissime regole di questo programma, per cui non ha messo il turpiloquio, commenti razzisti, sessisti e così via. Per cui mi dispiace deludere quei pochissimi ascoltatori che non omaggiano queste regole, i loro messaggi non verranno ripresi. Torno invece alla voce di Chivona Newsom di Black Lives Matter. Visto che le proteste stanno continuando, quali sono gli obiettivi che vogliono, che questo movimento vuole ottenere? Sentite. The Black Lives Matter group in New York, every time that we step outside in the name of protest. Quando Black Lives Matter scende in piazza a New York, ogni volta che protestiamo lo facciamo per una ragione. L'obiettivo generale è la completa liberazione per le persone nere in America, ma gli obiettivi immediati sono più numerosi. Stiamo chiedendo un completo rinnovamento delle tecniche di polizia a New York. C'è bisogno di reinventarle completamente. Se consideriamo le richieste ricevute dal New York Police Department, che poi si trasformano in intervento, ebbene, la maggior parte di queste chiamate non segnalano un reato, ma segnalano persone con un disagio mentale. Intendo persone con una dipendenza da droghe o con altri problemi di salute mentale. E, come è successo anche a manifestanti pacifici qui a New York nelle ultime 2 settimane, queste persone vengono percosse con bastoni. Quindi chiediamo al sindaco di New York, Bill de Blasio, al commissario capo Dermot Shih, vogliamo trovare un modo per rifondare la polizia e aumentare la sicurezza dei fermati. Ora, nel caso di Eric Garner, morto durante un fermo a New York nel 2014, il Dipartimento di Giustizia è stato tenuto fuori dal caso. perché si riteneva che quello fosse il modo più veloce per portare i responsabili in un'aula di tribunale. Ma adesso, nel caso di Breonna Taylor, l'unico modo per ottenere giustizia è che gli agenti responsabili vengano perseguiti dal governo federale, dal Dipartimento di Giustizia e dall'FBI. Quindi i nostri sforzi si rivolgono a una riforma della giustizia e allo stesso tempo si articolano sul territorio. Voglio che il pubblico sappia che la gente non sta marciando per strada a casaccio senza una ragione. Noi abbiamo delle richieste precise. Se una persona ci vede sui media, magari si attiva, inizia a contattare il proprio rappresentante politico e allora diventa tutta un'altra storia. Dopo l'omicidio di George Floyd, qui a New York, siamo riusciti a far approvare 4 nuovi regolamenti, il che significa che dopo che si scende in strada si riesce a ottenere giustizia. Personalmente, ritengo che l'unico modo per tutelare le persone emarginate consista nell'ottenere apposite leggi per loro. Se non ci fosse una norma, non avrei il diritto di voto, e questo vale per i neri, per le donne, per gli immigrati e per tutti gli altri gruppi di emarginati. E questo è sostanzialmente il manifesto programmatico, ciò che è stato fatto da Black Lives Matter e quello che il movimento si propone nelle parole con la voce di Siobhan Newsom, cofondatrice del movimento nella città di New York. 349-238-6666, il numero che ha digitato un ascoltatore scrivendo: ma c'è davvero il rischio che Trump non accetti l'esito a lui sfavorevole alle prossime elezioni presidenziali? Trump ha detto testualmente: vogliamo essere sicuri che le elezioni siano oneste, ma non sono sicuro che possano esserlo. Non lo so, con tutta questa situazione, milioni di schede non richieste, inviate a tutti, vedremo. Lo ha detto prima di volare in Florida, e facendo riferimento al voto per posta, che dati i numeri del Covid-19 sarà sostanzialmente indispensabile, quantomeno in alcune zone degli Stati Uniti. E poi un ascoltatore che in qualche modo preveniva la voce della Newsom scrive: urge comunque una riforma della polizia, troppo forse dipende dalla qualità dei capi. Così Nico, in altri puntate in Nessun Luogo Lontano, esperti, analisti puntavano il dito, il fatto anche sulla a volte non buona preparazione di chi è sul campo, proprio in termini di addestramento di gestione dell'ordine pubblico. 349-238-6666 per voi. Fatemi andare invece dall'altra parte, anche se non mi piacerebbe usare questa questo tono divisivo io stesso che dovrei raccontare, però Blue Lives Matter, in qualche modo questo movimento si contrappone in maniera molto frontale a Black Lives Matter. Sempre Antonio Tali ha raggiunto Joe Imperatrice, un ufficiale di polizia sempre di New York, New York Police Department, e rappresenta questo movimento. Durante le proteste per la mancata sentenza dell'omicidio di Breonna Taylor, perché diciamocelo chiaramente, quella condotta negligente non ha soddisfatto sostanzialmente nessuno, non si capisce perché la squadra di poliziotti era in 3 e 2 non sono nemmeno stati imputati o indagati per chissà che. Comunque, qual è la posizione di Blue Lives Matter sull'accaduto, perché due agenti sono rimasti feriti con colpi di arma da fuoco proprio durante quelle manifestazioni? E soprattutto, Joe Imperatrice di Blue Lives Matter ritiene che tra i manifestanti ci sono gruppi organizzati che possono compiere ulteriori atti violenti. Sentite il poliziotto. The Louisville, Kentucky incidents. L'incidente di Louisville in Kentucky, che ha visto l'agguato con armi da fuoco a due agenti di polizia, è il risultato diretto del sentimento antipolizia che i politici e i cosiddetti attivisti del movimento Black Lives Matter dipingono ogni volta che non ottengono ciò che vogliono. I media hanno nascosto le prove fattuali dei diversi episodi, come nel caso di Breonna Taylor, che non era innocente come molti pensano. Era invece soggetta ad un mandato di cattura, oltre che a un mandato di perquisizione per droga. E il suo compagno ha aperto il fuoco contro gli agenti di polizia, colpendo un sergente. Questo è il motivo per cui gli ufficiali di polizia hanno risposto al fuoco, in totale conformità con le procedure di difesa personale e sparando in direzione della minaccia. Sfortunatamente, Breonna Taylor è stata colpita, ma è stata lei a mettersi in quella posizione. Nessuno di questi elementi è stato portato all'attenzione dell'opinione pubblica. Questa distorsione della realtà ha portato al ferimento dei due agenti durante l'esercizio del loro dovere. And it leads to officers like these two being shot in the line of duty. E questa è la posizione molto ferma, molto perentoria di Joe Imperatrice, ve lo ricordo, è l'ufficiale di polizia del New York Police Department, rappresentante del movimento Blue Lives Matter, che in qualche modo cerca di controbilanciare anche la narrativa dei Black Lives Matter, che a suo parere è andata anche a distorcere la realtà. Ma gli emarginati, quanti poliziotti hanno ferito e ucciso, così Gianni da Verona, non perdi occasione per dimostrare quanto sei schifosamente schierato e anti-Trump, scrive un altro ascoltatore. E qualcun altro riporta la questione delle forze dell'ordine alla questione italiana, serve una revisione per l'Italia visto che a morire sono solo i poliziotti. Qualcuno torna sul caso Aldrovandi dicendo il problema non è razziale, però a questo punto vi invito, gentili ascoltatori, è chiaro che magari viene naturale, può risultare fisiologico riportare alla situazione italiana, ma i numeri, il contesto sono totalmente diversi. E poi sapete, la missione in nessun luogo è proprio raccontarvi i luoghi al di fuori dei confini italiani. Un ultimo ascoltatore, Enrico da Firenze, e poi vi faccio sentire ancora una volta Joe Imperatrice, l'ufficiale di polizia che è tra gli esponenti di Blue Lives Matter. Mi dispiace, ma l'autorità delle parole della polizia americana è uguale a zero, così Enrico da Firenze. Se c'è un esito sicuramente drammatico, oltre ai morti e ai feriti che restano sulle strade americane, è che la politica americana è sempre più polarizzata, è sempre più divisa e i toni sono sempre più accesi. Che cosa ha portato a questa polarizzazione? Gliel'ha chiesto Antonio Talia, sempre a Joe Imperatrice, tenente di polizia del New York Police Department, Blue Lives Matter. Sentite. Per quanto riguarda l'alto livello di divisione che caratterizza gli Stati Uniti in questo momento storico, credo che sia colpa dello sparuto gruppo di individui che rappresentano una narrazione negativa, che non tiene in considerazione tutti gli elementi di quello che sta succedendo. Questo atteggiamento divide le persone che non sono adeguatamente informate rispetto al ruolo e alla responsabilità degli agenti di polizia che compiono il loro dovere correttamente. Gli agenti di polizia non escono in strada con l'intenzione di ferire e uccidere le persone. Questa è una narrazione falsa. E chiunque vada là fuori dicendo che i poliziotti non applicano la giustizia, io rispondo che gli agenti devono reagire in continuazione a situazioni di vita o di morte ogni giorno, quando qualcuno gli punta una pistola contro, li assale o cerca di ferirli. I poliziotti hanno il diritto di tornare a casa la sera, mentre i sospettati non hanno il diritto di resistere all'arresto. Avete ascoltato e ascolterete ancora la voce di Joe Imperatrice, tenente di polizia, New York Police Department, uno degli esponenti più in vista del Blue Lives Matter. Intanto un ascoltatore dice la colpa è sempre e comunque dei media e dei giornalisti, anche in America, e ciò mi rincuora. Andrew Spannaus, buongiorno, ti rincuora? Andrew, mi senti? Sì. Oh, ok, stavo... Volevo iniziare il collegamento con una buttata, ma è riuscita malissimo, perché un ascoltatore dice che la colpa è sempre dei media. Volevo sapere se eri rincuorato da questo inizio così al veleno che ti propongo, ecco. Beh, la colpa c'è un po' dappertutto, da tutte le parti. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano proviamo a fare il punto sulle proteste in Kentucky, facendovi sentire la voce di due esponenti di Black Lives Matter e di Blue Lives Matter. Da una parte un attivista di New York, dall'altro un tenente di polizia del New York Police Department. Tra poco ve ne farò sentire ancora alcuni passaggi. Fatemi però andare da Andrew Spannaus, giornalista, analista americano, fra l'altro fresco di pubblicazione dell'ultimo libro che si chiama L'America post-globale, Trump, il coronavirus e il futuro. Andrew Spannaus, come si è arrivati a questo livello di non solo polarizzazione, ma aggiungerei politicizzazione delle forze dell'ordine, del loro ruolo e di ciò che accade sulle strade americane? C'è un mix di lunga data che si è creata negli Stati Uniti. Da una parte dobbiamo riconoscere che c'è una sorta di quasi un sottoproletariato, nel senso c'è ci sono delle comunità, delle zone del paese dove c'è povertà, ci sono difficoltà e c'è un rapporto antagonistico con la polizia, nel South Side di Chicago per esempio. Questo, e quindi c'è violenza tutti i giorni e c'è una sensazione da parte della popolazione che la polizia a volte è un nemico. Dall'altra parte la polizia, vivendo questa situazione, ovviamente è in difficoltà, ha paura, ci sono le armi e la polizia quindi deve prendere decisioni difficili, quindi adotta spesso un atteggiamento violento perché pensano di doverlo fare e spesso esagerano, questo vediamo, perché se è vero che il poliziotto, come abbiamo sentito, deve prendere decisioni di vita o di morte tutte le volte che esce, quando la persona, anche se è criminale, anche se è drogato chissà che cosa, sta correndo in un'altra direzione, nessuno ha diritto di sparargli, perché casomai può andare via e lo prendi dopo. Certo. Quindi si crea una situazione di tensione in questo modo qua. E purtroppo i media, non nessun luogo è lontano ovviamente, spesso si mette a prendere parte in questo e fa delle generalizzazioni. Sì. No, lo vediamo nel caso di Breonna Taylor, insomma, da una parte c'è tutta la verità, in altri media ci sono una verità completamente diverse, quindi bisogna andare a capire veramente cosa è successo. Sì. La voce che state ascoltando è quella di Andrew Spannaus, giornalista, saggista e analista statunitense, attento osservatore ovviamente di ciò che accade al di là dell'oceano, vive con noi in Italia ma continua a tenere gli occhi puntati, soprattutto in vista delle elezioni ovviamente del 3 novembre. Andrew, ha sbagliato qualcosa Trump in questi ultimi settimane, mesi, nella gestione delle proteste? Se ha sbagliato qualcosa? Sì, ha sbagliato a voler aizzare in un certo senso le tensioni. Trump, la sua debolezza è che non parla a tutti, questo è evidente e la popolazione lo riconosce. Perché Trump, anche quando durante la convenzione repubblicana si è cercato di mostrare la parte, il lato umano di Trump, quasi mai ha detto forse una parola per le vittime, ma poi si è messo a difendere la polizia, che va bene difendere la polizia, ma è chiaro che prendeva una parte e quindi questo viene percepito dalla popolazione. Quindi io non sono mai stato convinto che la campagna legge e ordine di Trump lo avrebbe aiutato molto. E i numeri dei sondaggi ci dicono questo per adesso. Gli americani si fidano di più di Joe Biden ad affrontare queste tensioni e problemi razziali e credono che con Trump ci possano essere più violenze. Trump può avere ragione su molti punti, ma il modo in cui ci si pone di fronte a una crisi che divide il paese conta molto. Certo. Andrew, dall'altra parte però il fronte democratico sembra che non stia facendo veramente nulla in vista del 3 novembre. Biden sì, va a trovare le vittime, però è come se fossero delle posizioni molto deboli, molto, molto evanescenti. Non mi sembra che abbia la potenza di fuoco. Sembra una parte, quella democratica, che rincorre continuamente l'agenda dettata da Donald Trump, e questa è una grande forza per i repubblicani, no? Joe Biden tutti i giorni misura dove tira il vento e si piazza in mezzo per essere un po' cattivo, però nel senso che lui si definisce proprio come un moderato che si mette al centro della discussione nel Partito Democratico. Deve stare molto attento, lui è convinto di questo e in parte sicuramente ha ragione, molto attento a non identificarsi con le istanze più forti, più di sinistra del partito. Lui pensa che il paese voglia un'alternativa a Trump, voglia tornare a una sorta di normalità e per questo la sinistra dovrà votare per forza per lui. D'altra parte deve fare appello anche a quella famosa classe lavoratrice bianca, una classe di persone che spesso culturalmente sono persone con valori conservatori e quindi non vuole alienare queste persone. Certo. In questo senso lui sta attento a non profilarsi troppo di sinistra. D'altra parte evita di proporre delle idee forti, di grandi programmi. Questo è anche una strategia, perché bisogna parlare di Donald Trump e degli errori di Donald Trump. Questo crede Biden. Più si parla di Trump, meglio è. E questo è incredibile, no? Perché sembra che il dibattito della politica statunitense si stia un po' svuotando di quelli che dovrebbero essere i contenuti. Per esempio, proprio ieri da questi microfoni ricordavamo come il New York Times, un editorialista, diceva, invocava a gran voce che entrasse la questione green, la questione dei cambiamenti climatici e dell'ecologia nel dibattito presidenziale in vista del 3 novembre. Andrew, nel nuovo libro, lo ricordo, L'America post-globale, Trump, il coronavirus e il futuro, analizzi l'America di oggi e quella che verrà e il suo nuovo posizionamento non soltanto in termini economici ma anche in politica estera. Da un lato evidentemente si deve risollevare l'economia, la manifattura e riposizionare soprattutto gli Stati Uniti nel mondo. Ci puoi sintetizzare in che modo sta avvenendo questo riposizionamento statunitense? Allora, torniamo brevemente a prima di Trump. Barack Obama già ha cominciato un cambiamento, lo abbiamo visto nel Medio Oriente in modo particolare, e l'ha tentato anche con la Russia, ma ha fallito questo tentativo di allontanarsi dalla politica dei neoconservatori. Questa era l'idea, meno interventismo, e ha cercato di riequilibrare i rapporti in Medio Oriente. Trump sulla Russia ha raddoppiato, anzi ha cercato di andare molto oltre. Il Medio Oriente ha cambiato quello che faceva Obama in termini di lato, un'alleanza più con Israele, Arabia Saudita, più forte, però è andato molto avanti con il tentativo di ritiro e di evitare guerre. E Trump è il primo presidente in 40 anni a non iniziare una nuova guerra. Sì. Detto questo, lo spostamento principale, il cambiamento riguarda la Cina. I democratici e i repubblicani non sono molto diversi nei confronti della Cina adesso. La globalizzazione viene archiviata in parte per gli Stati Uniti in termini economici e strategici. La Cina è un competitore, ci sono diverse fazioni, chi vuole andare a uno scontro molto più forte con azioni, diciamo, dei servizi, azioni dell'intelligence, chi vuole mantenere la collaborazione ma comunque portare via un po' di potere economico alla Cina e cercare di rafforzare le alleanze contro la Cina. Questo negli Stati Uniti stiamo vedendo, nel libro cerco di spiegare come queste sono una direzione che avrà profondi effetti sull'economia americana. Certo. E che cambierà i rapporti anche mondiali. E certo, e anche le relazioni internazionali ovviamente ne risentiranno se il principale attore fino a qualche anno fa a un certo punto decide improvvisamente, non improvvisamente, perché già Obama l'avevi detto, aveva iniziato, comunque decide di cambiare rotta. Avete sentito la voce di Andrew Spannaus, giornalista, analista statunitense, il suo ultimo libro, ve lo ricordo, Mimesis Edizioni, L'America post-globale, Trump, il coronavirus e il futuro, se volete un po' con lui sfregare la sfera di cristallo e capire dove stanno andando gli Stati Uniti. Andrew, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Grazie, saluto a tutti. We're all living in America, America, America. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati. L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. A questo punto vi propongo un botta risposta virtuale. Sempre a New York, la rappresentante di Black Lives Matter, Chivona Newsom, e poi Joe Imperatrice di Black Lives Matter. La Newsom dice che uno degli obiettivi del movimento è la riforma della polizia. Le abbiamo chiesto se ha qualcosa da dire direttamente, in particolare al tenente della polizia del New York Police Department, Blue Lives Matter. Sentite cosa dice. I usually don't address racism. Io abitualmente non mi rivolgo al razzismo, non parlo ai razzisti o a persone coinvolte in gruppi che si rifanno al suprematismo bianco. Ma quello che vorrei dire al vostro pubblico italiano è che un movimento come Blue Lives Matter non è paragonabile alla nostra situazione. Io non posso svegliarmi domattina e decidere improvvisamente di non essere più una donna nera, mentre un agente di polizia può decidere in ogni momento di dismettere la divisa e cercare un altro lavoro. La verità è che le persone che esibiscono le bandiere di Blue Lives Matter lo fanno perché sono troppo avvedute per girare con una svastica nazista o con una bandiera sudista. Quindi si tratta di simboli per nascondersi cinicamente e continuare a opprimere la gente nera. Per reinventare la polizia, dobbiamo prima ricordare la storia delle forze dell'ordine in America. In origine si trattava delle cosiddette slave patrol, ossia gruppi di mercenari reclutati e pagati dai proprietari per catturare i fuggitivi e riportarli indietro nelle piantagioni. Credo che nessuna istituzione fondata sul razzismo, su un passato di ronde per riportare indietro gli schiavi, possa mai funzionare all'interno del sistema. L'eguaglianza e la giustizia sono i nostri veri obiettivi e se vogliamo reimmaginare la polizia, questa polizia deve comprendere lavoratori del sociale e individui addestrati a rapportarsi con problemi di salute mentale. Solo così potremo evitare altri casi di tredicenni con deficit mentali che non capiscono le istruzioni degli agenti di polizia e finiscono uccisi, come è successo in Pennsylvania. Questa Chevona Newsom di Black Lives Matter, sentite che cosa risponde allora Joe Imperatrice all'accusa secondo la quale gli agenti di polizia sono spesso mossi da pregiudizi razziali. Joe Imperatrice. Nel 2020 gli agenti di polizia non hanno pregiudizi razziali. Quello che fanno è avere pregiudizi criminali. Tutti questi incidenti di cui gli attivisti si lamentano sono dovuti al fatto che qualcuno stava commettendo un crimine e un agente è stato chiamato sul posto per risolvere il problema. Gli agenti non saltano fuori dai loro veicoli inseguendo persone di colore con l'unico scopo di violarne i diritti. Quello che succede è che gli agenti di polizia si recano sulla scena di un crimine facendo il loro lavoro e cercando di risolvere il problema per cui sono stati chiamati. Le persone in questione, invece di obbedire agli agenti, complicano la situazione e non accettano le conseguenze dei crimini che commettono e della resistenza all'arresto. Questo è quello che succede realmente. E poche persone parlano apertamente della verità dei fatti. Buongiorno, benvenuta nel suo luogo lontano a Gaia Pellegrini Bettoli, giornalista, autrice di Fresca Fresca, di pubblicazione Shake Up America, Castelvecchi Editore. Gaia, buongiorno, ben ritrovata. Buonasera. Allora, abbiamo fatto parlare o fatto scontrare virtualmente due posizioni, due movimenti evidentemente antagonisti. Che idea ti stai facendo di una sempre più polarizzazione delle piazze, delle strade statunitensi e a chi è utile tutto ciò? Ma al contrario di Stanhouse, io credo che la politica di legge e ordine possa invece favorire Trump nella sua corsa alle elezioni. Ma al di là di questo, credo che sia interessante paragonare brevemente come sono nati Black Lives Matter e come è nato Blue Lives Matter. Entrambe sono nate durante il mandato di Barack Obama e questo perché? Perché Black Lives Matter è stato fondato da tre donne di colore nel 2013 ed era in risposta allo scagionamento di un poliziotto, Zimmerman, che aveva sparato e ucciso un ragazzino di nome Trayvon Martin in Florida. Mentre invece Blue Lives Matter è stata fondata da tre uomini bianchi che fanno parte della forza delle polizie, fondato nel 2014 a New York in seguito all'uccisione di due poliziotti. Quindi è chiaro già da dove nasce l'enorme differenza. Stanno difendendo tutte e due un diritto. Ora, credo che sia tutto anche molto riconducibile al secondo emendamento americano che quindi dà il diritto del porto alle armi. Perché se non ci fosse questo immediate and constant threat, questo costante pericolo per i poliziotti, io non li giustifico, però cerco di mettere le cose in un contesto, per esempio, molto diverso dall'Italia. Certo. Immagino che un poliziotto in Italia non si aspetti che un civile regolare possa essere sempre armato. Certo, certo. Quindi questo è da dire. Tra l'altro una cosa molto importante anche da sottolineare è il fatto che in America anche questa il concetto di quello che è una ragionevole difesa cambia da stato in stato. Infatti, per esempio, la California ha cambiato e ha detto che la polizia devono potersi difendere solo se necessario, mentre invece in altri stati viene usata la terminologia ragionevole, che quindi è molto più soggettivo. Un ultimo punto interessante, Donald Trump ha chiamato il procuratore generale Daniel Cameron dal Kentucky, che è quello che ha annunciato la sentenza del grand jury, che è un uomo di colore, dei repubblicani e tra l'altro una delle persone che ha parlato al Republican National Convention, e Trump l'ha definito una star. Quindi ci sono tanti livelli di complessità. Certo. Ora non si può, credo che entrambe le testimonianze che abbiamo sentito hanno entrambe delle verità, ma nascondono anche dei pregiudizi sia da una parte che dall'altra. Ricordiamo che comunque dal 25 maggio, quando è stato ammazzato George Floyd, ci sono state 7.000 proteste in 50 stati. Certo. E quindi certamente la situazione negli Stati Uniti è grave, e adesso a Louisville quello che dicono gli slogan è say her name, dite, manifestate il nome di Breonna Taylor. E questo perché? Perché nella sentenza del grand jury il nome di questa povera donna di 26 anni, infermiera nera, che è stata ammazzata, non appare neanche. Sì. E questo è stato uno dei motivi scatenanti, oltre naturalmente, secondo la comunità di Louisville, l'ennesimo atto di violenza da parte della polizia. Gaia Pellegrini Bettoli, lo ricordo, giornalista, ha scritto Shake Up America, Castelvecchi editore, un'altra lettura consigliata questo venerdì di Nessun Luogo Lontano per meglio avvicinarsi preparati e caldi alle elezioni del 3 novembre. Gaia, come l'impressione che ci sentiremo molto molto presto, intanto grazie mille per essere stata con noi, anzi stai qua perché come al solito Valeria Bernardi ci defenestra con eleganza. You're fired, you're fired, you're fired. Quindi un grazie a tutti, un grazie alla squadra, ci sentiamo domani ore 10 col meglio di e lunedì alle 16. Un saluto. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso! Su aruba.it